una riunione, si potrebbe dire quasi una riunione alla Grana, di set, Sud Europa di fronte alla turistificazione. Abbiamo deciso, abbiamo come nucleo, come sezione del nucleo fiorentino di SET, abbiamo proposto al nazionale di fare un incontro a Firenze, come quello di Venezia dell'aprile scorso, quello di Napoli in autunno. A inizio marzo ci vorremmo trovare qui a Firenze, fare un incontro nazionale sui temi della turistificazione. Bene, la riunione quindi ha un taglio, io direi, anche operativo. Quindi ci saranno dei brevi interventi più o meno organizzati prima, poi se qualcuno degli esempi vuole aggiungere, condividere dei temi, è benvenuto, e ci siamo anche dati come metodo, diciamo così, di fare interventi brevi, quindi non durerò il tempo, mi dispiace, non lo faccio quasi mai, ma stasera bisogna fare, se no non ce la facciamo, io non siete, non ce la facciamo a tenere appunto i ritmi. Dunque, il manifesto, il nucleo fiorentino di SET si è costituito da poco. Abbiamo al nucleo fanno parte, diciamo, i gruppi, le realtà che hanno fondato appunto il nucleo fiorentino sono, ve le leggo così le conoscete almeno per nome: Altempiana, Antiquarco Costruendo, Collettivo di Architettura, Assemblea dei Cardatori, la Comunità di Resistenza Contadina alla Ronze, il CSA Next Emerson, la Polveriera Spazio Comune che ci ospita e che ringraziamo, Mondeggi Bene Comune, Fattoria Senza Padroni, per un'altra città Firenze, Spazio Inchiostro. Dunque, queste realtà si sono ritrovate in un manifesto che vi presento velocemente, che potete trovare online sia sul sito, su Facebook SET, sia su varie testate online, tra cui La Città Invisibile, o sui volantini sul tavolo che siete invitati a prendere. Dunque, Firenze si distingue rispetto ad altre realtà, però devo mettere il tempo, se no è inutile che poi mi ricordo. Firenze si distingue, secondo noi, secondo le nostre, diciamo, le nostre esperienze sul territorio, si distingue dalle altre città italiane quanto a turistificazione per la scala, cioè i processi appunto di trasformazione diretti alla monocultura turistica coinvolgono non solo la città ma anche la campagna. Questo aspetto è specifico ed è particolare appunto della nostra realtà, e su questo anche vorremmo poi anche nell'incontro di marzo vorremmo, e poi vedremo anche il programma, la bozza di programma che abbiamo preparato, vorremmo calcare la mano, perché non è possibile analizzare, studiare e quindi contrastare le dinamiche di turistificazione a Firenze se non abbiamo uno sguardo ampliato il territorio. Il nostro manifesto, riassunto in poche parole, è appunto, analizza questo fenomeno, lo inserisce all'interno della categoria delle monoculture industriali, estrattiviste e colonialiste. Quindi il turismo è per noi il nemico, diciamo, l'obiettivo nostro, della nostra azione di resistenza controprogettuale è il, appunto, un'industria pesante che ha caratteri appunto di monocultura, di estrattivismo e di colonialismo. È un'industria che estrae profitto da un estrae ricchezza privata, da un patrimonio monumentale, collettivo, finito, a dimensione finita, non è in grado di riprodurlo e ne dipende. Ne dipende finalmente, lo consuma senza. Di diversi è un'industria che opera una violenta appropriazione dello spazio pubblico, che diventa spazio pubblico, costruito, libero, che diventa una nuova terra di virus. Crea ad esempio una monocultura che determina le politiche urbane, la gestione urbana è ormai, si può dire, la gestione urbana è guidata da interessi di carattere appunto di carattere industriale e appunto i politici sembrano assecondare, facilitare operazioni di estrazione di profitti delle multinazionali dal patrimonio collettivo. Produce selezione sociale, coinvolge quartieri popolari e riesce a coniugare, abbiamo scritto, la speculazione immobiliare e la selezione sociale. Quindi crea deserti, recinti, repressione e militarizza la città. Vediamo che le misure di casco urbano, ad esempio, investono le aree turistiche. Se qui leggete il decreto legge che istituisce il casco urbano del 2017, vedrete che immediatamente vi è una misura appunto di allontanamento di soggetti che possono disturbare la sicurezza pubblica proprio anche dalle aree turistiche. Non è un caso che le aree turistiche siano, siano popolate da militari in tenuta contro. Ecco, l'industria turistica, abbiamo scritto di là nel tessuto sociale. La falsa, ad esempio, la falsa narrazione della, dell'economia della condivisione, di questo è stato scritto tanto, della sharing economy, diventa un potente strumento di atomizzazione dei residenti, separa i residenti tra loro un po' come il lavoro precario aveva fatto nelle classi lavoratrici, piccoli proprietari di appartamenti diventano imprenditori in questo nuovo, in questa nuova industria a scala globale. Siamo di fronte a una mutazione, no, della casa da diritto a merce, magari posizionata sulle piattaforme del bed and breakfast. Siamo di fronte a forme acute di precarizzazione del lavoro, perché il turismo ha bisogno di lavoro mal pagato, mal retribuito, mal tutelato, ed è, lo scriviamo qui, un universo oscuro e insondabile di esistenze infelici. Abbiamo poi, ci troviamo poi di fronte alla privatizzazione dei beni comuni e di questo va bene, verrà questo argomento verrà approfondito negli interventi successivi. Quindi l'industria turistica, no, mal governata, ma io direi piuttosto assecondata e facilitata, devasta il territorio e l'ambiente, perché collegati al fenomeno della turistificazione ci sono le grandi opere nella retorica del turismo, della competizione tra città, della competizione tra metropoli, si incuneano le grandi opere. Ecco, finito il tempo, quello che vorrei dire in conclusione di questa brevissima introduzione è come il vuoto pianificatorio, il vuoto programmatorio, e qui si va nell'urbanistica, materia purtroppo a metà, il vuoto pianificatorio è strumentale a questi processi. Quindi, no, queste sono velocemente, ho dimenticato tante cose, i temi in